Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Un benvenuto da Maurizio Melis. Abbiamo parlato tante volte di pompe di calore. Ricorderete che si tratta di macchine che in estrema sintesi prelevano energia termica dall'ambiente esterno, dall'aria, da una falda acquifera piuttosto che dal terreno, e la utilizzano per riscaldare un ambiente, casa, ufficio, non importa. Ora però questi sistemi perdono molta della loro efficienza se devono riscaldare acqua ad alta temperatura, come accade quando si vuole alimentare un impianto di riscaldamento a termosifoni. Peccato che proprio questi siano gli impianti più diffusi. Un fatto che non è sfuggito ai ricercatori di Area Science Park a Trieste, dove hanno messo a punto una pompa di calore ad alta temperatura. Ne avevamo dato notizia qualche mese fa, quando stava per iniziare la fase di test, che ora si è conclusa. Cerchiamo allora di capire com'è andata con l'aiuto di Giancarlo Michellone, presidente di Area Science Park. Buonasera Michellone, bentornato a Mr. Kilowatt. Buonasera. Allora Michelone, intanto ricordiamo un po' di che cosa si tratta. Si tratta di una sorta di pompa di calore a due stadi, è vero? Esatto, esatto. Quindi lo stadio inferiore è come fosse una pompa di calore normale, poi il trucco è stato di avere qualche idea nuova per raggiungere un secondo stadio con i fluidi opportuni e con tante diavolerie per arrivare ad avere acqua tra i 70 e gli 80 gradi, cioè quella che serve ai termosifoni nelle condizioni più sfavorevoli dell'inverno. Ricordiamo anche che però ha bisogno di una fonte di acqua, vero? Per funzionare ci vuole un bel flusso di acqua come sorgente di calore. Sì, come sorgente di calore ha bisogno di avere dell'acqua e quindi serve soltanto nelle città in cui ci sono o delle fognature o degli acquedotti. Quindi tutte le città che non hanno questo sono escluse. Va bene. Senta, allora, com'è andata? Dove avete testato questo apparecchio e se mi sa dire qualche numero, qualche risultato? Beh, è in un complesso scolastico di Pordenone. Comunque i dati di sintesi sono che il risparmio dal punto di vista economico è superiore al 20% in questa stagione invernale. Poi il COP, come dicono loro, il coefficient of performance, è superiore a 3, visto come media stagionale, il che vuol dire che per ogni quota di energia elettrica utilizzata per muovere i compressori, le diavolerie della pompa, si sono prodotti praticamente 3 volte in più di calorie, di calore. D'accordo. Diciamo che insomma il principio, questo delle due pompe in cascata o integrate, diciamo, è un principio che voi adesso però state pensando di estendere a tutta una serie di altre circostanze, vero? Innanzitutto si tratta di capire che l'acqua si trova praticamente in ogni città italiana che poi soffre del problema dell'inquinamento dovuto al riscaldamento urbano. Eh sì, perché uno dei vantaggi di questi oggetti è che non emettono particolato, no, essendo elettrici, sostanzialmente. In città, se con un colpo di bacchetta magica scomparissero tutte le caldaie e fossero sostituite da queste pompe, l'inquinamento urbano scenderebbe a zero per quanto riguarda le emissioni dovute alle caldaie, poi resterebbero le automobili. Senta, ma problema, ci vuole raccontare qualcuna di queste declinazioni alle quali state pensando? La vera rivoluzione è che si può pensare al teleriscaldamento freddo. Cioè, adesso si fa il teleriscaldamento, vuol dire grandissima centrale che brucia di solito metano o qualcosa che è ancora peggio, che ovviamente è abbastanza vicino alla città o in città, perché poi di lì partono le tubazioni con acqua e vapore tra i 130 e i 70 gradi come tubazione certo. Di ritorno in caldaia, e quindi uno deve spendere un sacco di soldi per fare la centrale, poi deve spendere moltissimo per scavare, rompere, mettere i tubi che hanno 3 o 4 pellicce perché devono essere isolati dal terreno, certo. Quindi si mettono isolanti sugli isolanti sugli isolanti. E lei dice invece che cosa fate circolare, non più l'acqua calda? No, in questo caso ecco, si tratta di prelevare acqua dove esiste, di portarla nella zona dell'edificio, raffreddarla, cioè spillare del calore e mandarlo negli per riscaldare. Cioè in pratica, se ho capito bene, lei dice invece di far circolare acqua calda nei sistemi di teleriscaldamento, facciamo circolare acqua a temperatura ambiente. Poi sì, a temperatura dell'acquedotto. Esatto, della esatto. A questo punto le vostre caldaie la usano. Non isoliamolo, perché se si scalda certo. Tanto meglio, avremo più calore. Sì, infatti, infatti. Ma mettiamo i soliti tubi dell'acquedotto. Esatto, no? esatto. Sono di plastica, attenuta. State pensando anche a una pompa ibrida. Ci spiega un attimo che cos'è? Una famiglia di pompe ibride. Il concetto è di accoppiare i cicli termodinamici, come quelli che sono nella caldaia che non inquina, che poi per gli amici si chiama TINA. Perché ah, va bene, TINA. Perché d'accordo. Prima si chiamava PDHT, insomma una cosa. Vabbè. Allora, invece di usare soltanto TINA, che è basata su cicli termodinamici, si accoppiano un ciclo termodinamico o i cicli termodinamici della TINA con dei cicli chimici. Cosa si ottiene in questo caso? Si ottiene che puoi avere degli spillamenti di calore a diverse temperature e anche il freddo. Per esempio, una delle applicazioni a cui stiamo pensando, dove ci sono i ricchi arabi pieni di soldi, che hanno il petrolio ma preferiscono venderlo e hanno temperatura molto elevata e bisogno di molto freddo, stiamo sviluppando brevetti per pigliare il calore dell'aria e produrre grandi quantità di freddo, sempre con il principio di usare il sistema di TINA accoppiata con un ciclo chimico. Quindi per esempio nei climitorri stiamo pensando questo sistema. Un'altra soluzione per l'agricoltura, per produrre temperature che servono per esempio per la vinificazione dei bianchi e così via. Tutta una serie insomma di varianti su misura per il tipo di applicazione a cui sono destinati. È così. In realtà stiamo tentando un qualcosa di molto diverso, di molto più ambizioso, che è parlare di recupero del calore, recupero dei cascami di calore che esiste. Insomma, ecco, come si fa con i rifiuti? Si fa dei rifiuti, di pensare al loro recupero, al riciclo e riutilizzo. Per il calore siamo indietro di una qualche decina d'anni, ma ci arriveremo adesso, siamo obbligati. Va bene, grazie Michellone, ci saluti Tina. Arrivederci, senz'altro. Buongiorno. È tutto, a domani.